Focus Economia. Ed eccoci qua, straordinariamente, lo so che non state riconoscendo la voce di Sebastiano Barisoni, ma tra pochissimi minuti è qui, quindi improvvisamente lo sostituisco, sono Oscar Giannino, ma comunque era previsto che in questo Radio Day dedicati alla crisi di ieri e oggi di Radio 24, come avete sentito, ci siamo incrociati e sommati, e quindi Oscar Giannino vi saluta e vi terrà compagnia. Adesso Sebastiano arriva tra poco, ma intanto vado subito alle notizie di giornata. Oggi è stata la giornata che speriamo, anche se per il momento dei mercati non si vede, pochi minuti dalla chiusura, ma speriamo potrebbe rappresentare, dico potrebbe perché naturalmente con i mercati bisogna andarci piano, potrebbe rappresentare un turning point, una svolta, auguriamocelo, perché l'aosta straordinaria triennale che si è tenuta oggi con la BCE, lo sapete, va considerata come l'inizio di una strategia non ortodossa per garantire al sistema bancario tutta la tenuta necessaria. In questo la BCE con Mario Draghi ha dichiarato, e come si vede fa e farà tutto quello che appartiene alle politiche monetarie non ortodosse per impedire che il sistema bancario vada in difficoltà. E in effetti la notizia della giornata è senza dubbio la proporzione dell'andamento di questa asta di liquidità triennale, che ha battuto ogni aspettativa del mercato. Se tenete conto che le aspettative del mercato erano più o meno di 300 miliardi, poco meno di 300 miliardi di euro assegnati in questa asta di liquidità straordinaria triennale, al contrario le richieste che sono venute da 523 banche europee alla Banca Centrale Europea sono ammontate a 489 miliardi di euro, quindi l'equivalente di 645 miliardi di dollari. Sapete che il meccanismo è una liquidità che viene riconosciuta a un tasso di interesse che è quello benchmark praticato dalla BCE sul mercato, quindi l'1%, e sapete che le banche possono, per partecipare a questa asta, portare una estensione di collaterali enormemente ampliata dalla BCE proprio per consentire di evitare il credit crunch. Di questi 489 miliardi di euro dovete fare il conto che più o meno 193 sono quelli di offerta di liquidità aggiuntiva vera che le banche potranno impiegare da domani in avanti, perché e invece il resto, cioè 296 miliardi, devono essere mantenuti a garanzia del debito assunto nei confronti della BCE. Quindi sono 200 miliardi che a questo punto si tratterà di capire. Questo è l'interrogativo del mercato, e questo spiega perché il mercato ha girato male dopo una giornata invece positiva, e l'interrogativo a questo punto diventa l'utilizzo che le banche faranno di questi 200 miliardi, perché un conto è naturalmente se, come avete sentito anche Federico Ghizzoni, l'amministratore delegato di Unicredit, ci ha detto stamattina, lo abbiamo rimandato in onda, le banche si impegneranno e davvero gireranno il più di questa liquidità alle famiglie e alle imprese, evitando il credit crunch ed evitando quindi la rapidità del deterioramento dell'economia reale, proprio nel canale credito economia reale, oppure quanto di questo debba andare all'altro scopo su cui i mercati stanno scommettendo in negativo. E qual è l'altro scopo? È quello naturalmente di garantire gli acquisti alle prossime aste dei titoli del debito pubblico, perché come si è detto, e su questo la comunità anche degli economisti si divide e naturalmente anche dei money makers sul mercato si divide, in realtà questo meccanismo da parte della BCE alle banche è una maniera indiretta per garantire anche il sostegno alle aste pubbliche e per sperare che da questo si derivi si determini un abbattimento degli spread. L'abbattimento però oggi non c'è stato, perché il mercato ha buone ragioni per fare una scommessa che non è ancora quella di una dotazione finanziaria per banche che devono andare a ricapitalizzazioni, che hanno una compressione dei margini e che fronteggiano un deterioramento di sofferenza e incagli per via del fatto che siamo ufficialmente in recessione, lo sappiamo dall'Istat questa mattina, già dal terzo trimestre di quest'anno. Il problema è che l'ammontare delle scadenze dei titoli del debito pubblico, che è in formazione del primo trimestre del 2012, è tale che ovviamente l'interrogativo resta aperto, perché pensate che come ha detto il presidente della BCE Mario Draghi due mattine fa, noi abbiamo nel solo primo trimestre del 2012 230 miliardi di bonds sovrani europei che vanno in scadenza. Ed è vero che da una parte le banche sono l'80% di coloro che partecipavano alle aste di debito pubblico, ma dall'altra a questo si somma il fatto che ci sono altri 600 miliardi tra obbligazioni bancarie e obbligazioni corporate che vanno in scadenza, e quindi voi capite bene che questi 196 miliardi di oggi, del totale dei 489 miliardi che sono stati dati in questa asta straordinaria di liquidità triennale, non sono la risposta per il momento complessiva al problema. Quindi il focus del mercato, che ha girato in negativo con spread che sono tornati a risalire, sia quelli italiani che quelli spagnoli, come vedete ha un fondamento, perché il totale dei titoli in scadenza pubblici private nel 2012 è tale da fare tremare le vene e i polsi, ma contemporaneamente, e questa è la fine della mia introduzione impropria perché Sebastiano Barigoni nel frattempo è entrato, noi dobbiamo sperare, questa è la mia prima opinione, che questa giornata segni un turning point, perché la Banca Centrale Europea che inizia a dare queste munizioni con collaterali così ampi è finalmente un abbozzo di prima risposta con risorse e metodologie non ortodosse adeguate per impedire che altrimenti la strada che fino a questo momento abbiamo percorso resti senza, priva di una risposta. Sebastiano, bravissimo, a te, perché io sono bravissimo. Del tutto impropria, ma io ti lascerei con continuare, c'è anche il fiatone, Sebastiano. C'è anche lo shopping natalizio alla faccia della crisi, tutto bloccato. No, Oscar Giannino, adesso riprendiamo la struttura classica del programma. Era previsto, come vi ha già ricordato, fosse il nostro ospite. Vi ricordo solo una nota di servizio, ormai mi relego a una funzione di valletta. Ma di fronte diciamo a tanta analisi, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre telefonate, che anche oggi prenderemo, secondo giorno della due giorni Credo 24 dedica allo speciale della crisi. Rapidamente le altre notizie in breve, invece poi io adesso riprendendomi un ruolo e riattribuendo a Oscar Giannino il ruolo di ospite, un paio di domande proprio sulla notizia del giorno, quindi questa asta immensa, ma i due scenari che può portare e l'accoglimento molto tiepido dei mercati, ecco, su questo interrogerò anche Oscar Giannino e poi anche altri ospiti. Rapidamente le notizie in breve. Già vi accennava Oscar Giannino, le borse hanno reagito in maniera più che tiepida, deboli all'inizio quando la notizia è stata confermata, sia nell'entità che nella suddivisione dei vari paesi per quello che riguarda l'asta, ma poi sono anche peggiorate, meno 1,25% Milano in questo momento, con Unicredito che perde 4,80. Le due banche principali che hanno beneficiato dell'asta sono chiaramente Unicredito e Intesa San Paolo. E Popolare Emilia Romagna meno 4%, UbiBanca meno 3,90%, Monte dei Paschi meno 3% come la Popolare di Milano, Mediobanca meno 2,80%. Devo dire che Intesa San Paolo anche oggi fa un po' meglio della media del mercato, perché guadagna lo 0,70%, Mediolanum più 1,15%, Enel Green Power più 0,80%, sono gli altri due titoli in rialzo. Rapidamente, oro anch'esso in rialzo, $1,640 l'oncia, petrolio vicino ai $100, $99 al barile. Crisi immobiliare in America peggiore delle attese per quello che riguarda invece i dati sulle vendite di case esistenti. Dal 2007 in poi praticamente un 15% in meno rispetto alle attese, però poi ripeto, oggi più che di America parliamo di Europa. Il boom di richieste è 489 miliardi, 523 banche, mancavano praticamente solo io e Oscar Giannino e c'erano tutti oggi per chiedere soldi al tasso di interesse dell'1% alla Banca Centrale Europea, 40 miliardi la garanzia per quello che è arrivato dall'Italia, il collaterale, questo vuol dire tu ti fai prestare dei soldi, un po' come avviene nel privato quando la banca ti dice cosa mi dai in garanzia, ecco. Dovremmo rispondere anche noi come le banche, ti diamo in garanzia titoli di Stato, e così hanno fatto 40 miliardi di titoli di Stato italiani dati in garanzia dalle banche italiane alla BCE. Lo spread non si allenta, 480 punti il livello medio di oggi. Sarkozy di nuovo, Sarkozy non ho capito se i fuori onda ormai siano parte della sua campagna politica, perché un altro fuori onda, cioè con i microfoni, con le telecamere che non stavano registrando apparentemente, ha attaccato le agenzie di rating, ha detto insomma dovrebbero declassare il Regno Unito, non noi francesi, noi siamo meglio di Londra, non c'è alcun motivo per cui le agenzie di rating ci attacchino. Confermato purtroppo l'ingresso in allora la recessione da un punto di vista tecnico si ha dopo almeno due trimestri, possibilmente tre trimestri di segno meno, però oggi abbiamo il primo dei trimestri, meno 0,2% il PIL del, fotografato dall'Istat per quello che riguarda il terzo trimestre 2011 rispetto al trimestre precedente. Anche i primi due trimestri purtroppo del 2011 sono stati rivisti al ribasso, cioè una revisione. Ci siamo accorti che siamo cresciuti meno di quanto non si stimasse, da più 1% nel primo trimestre a più 0,8, da più 0,8 a più 0,7, ma insomma la tendenza è quella: fai più 0,8 nel primo trimestre, più 0,7 nel secondo, meno 0,2 nel terzo. Il quarto si chiuderà sostanzialmente con un altro segno meno, e la previsione per l'intero 2012 purtroppo è di un meno 1,5 secondo la Confindustria, meno 0,4 secondo l'Ocse, ma insomma lì siamo. Continuiamo anche a raccontare la crisi con notizie non così pesantemente economiche, lo sapete, una piccola rubrica dentro l'Headlines che abbiamo lanciato la settimana scorsa su cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Oscar mi guardava con sorpresa. C'è chi usa i Doors, c'è chi usa. Certo. Allora, non è De Angelis, Pretorini. Comunque, c'è una polemica anche su questo con gli ascoltatori al 349-238-6666. Cos'è questa crisi? Allora, nelle grandi città, per Capodanno, ma non solo, aumento medio del 60% delle tariffe alberghiere. Per San Silvestro e, ripeto, l'intero periodo, Firenze e Roma più 50%, mentre, se qualcuno fosse ancora orientato al last minute, Atene è la meta del futuro, l'87% degli hotel è ancora vuoto a prezzi stracciati. Una notte in camera doppia nella capitale greca costa in media 70 euro, il 10% rispetto al resto dell'anno, quindi non solo sono vuoti ma costano meno rispetto a un periodo normale dell'anno. E anche a Bruxelles, questo me la spiego meno, praticamente vuoti un albergo su due, 48% di stanze vuote e tariffe in calo, pochissimi posti invece negli alberghi di Parigi e Londra. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Adesso io non so, ma insomma, si parla anche di un effetto Monti a tavola. Uno potrebbe dire acidità di stomaco. No, vista la manovra. No, effetto Monti a tavola, l'associazione dei pizzaioli italiani, l'APES, ha condotto uno studio. Praticamente resistono a tavola degli italiani lo zampone, più 31% del totale, il baccalà con la polenta 23%, ravioli e cappelletti 14%, mi sta venendo una fame incredibile, e soprattutto irrompe l'economica pizza, uno su cinque mangerà pizza per il cenone, soprattutto in versione benagurante, la cosiddetta pizza super enalotto, che potete sapere com'è, fatta di culatello e peperoncino. Ormai stiamo veramente raschiando sia come programma che come paese il fondo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Si è risolta apparentemente la vicenda dei dipendenti dei ristoranti del Senato. La Gemeaz, l'avete letto sui giornali, la società che aveva annunciato alcuni licenziamenti, 6 camerieri, 2 cuochi e 1 tabaccaio. I tavoli da qualche settimana sono frequentati da pochissime persone. Perché? È perché c'è stato un ritocco dei prezzi che a noi andrebbe benissimo ancora, visto il ritocco. 8 euro per un branzino invece che 4, sono problemi. Però a quel punto la crisi ha attanagliato anche i nostri onorevoli senatori e quindi il ristorante è andato deserto. Pensate che adesso, mentre prima per una bistecca di manzo si pagavano 2,68 euro, ora sono tempi duri. Sono volatili per diabetici, dicevo un mio amico, 5,23 euro. Pensa un po'. 5,23 la bistecca di manzo e anche la spigola, e quindi la fuga verso lidi più economici da parte dei senatori. Praticamente oggi il questore del Senato ha chiesto praticamente di richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità. Sostanzialmente i questori hanno salvato il posto ai camerieri del ristorante, tutto si tiene, tutti felici e andiamo avanti così. Nel frattempo però dal Senato arriva anche la notizia che la giunta per l'elezione del Senato ha votato contro l'incompatibilità tra la carica di senatore e quella di sindaco decise invece dalla Corte Costituzionale. Riguardava Antonio Azzolini, Vincenzo Nespoli, sindaci di Molfetta e di Afragola. Il Partito Democratico e l'Italia dei Valori hanno abbandonato l'aula, però insomma tutto si tiene, salvi i camerieri e il tabaccaio, salvi i senatori che possono fare sindaco e anche sedere al Senato. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Ti stai divertendo, eh? Non era rivolta a Oscar Giannino, perché qua stiamo prosaicizzando tutto, però veniamo subito a palla al tema. Tu hai già spiegato molto bene che cosa è successo oggi. Io ho due o tre domandine leggere per te. La prima riguarda Draghi. Cioè, adesso Draghi deve comunque come azionista di riferimento più forte la Bundesbank, non c'è niente da fare, è il paese più forte, è l'azionista più forte. Ma secondo te questa mossa segna già un primo cambio di passo rispetto ai filo tedeschissimi Trichet e Duisenberg? Ma di fatto più che un cambio di passo è una strategia obbligata che fa bene a mettere all'inizio della sua gestione, perché il deterioramento delle esposizioni bancarie è molto forte. Noi sappiamo perfettamente che da settimane è aperto in Germania non solo per la seconda banca, per l'Asset Commerce Bank, ma anche per un'altra di quelle locali, WestLB, canali riservati, per cui hanno dovuto rifinanziare il loro braccio finanziario pubblico, la Sofin, che è quella già intervenuta nel post Lehman Brothers. Quindi di fronte a questo anche i tedeschi, e sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, delle banche francesi, sono in una condizione tale che effettivamente il cambio di passo c'è. Io credo che Draghi si atterrà alle parole che ha pronunciato quando ha detto però che non bisogna contare sul fatto che analogo cambio di passo venga per il sostegno dei titoli sovrani. Quindi su questo credo che la Bundesbank, del resto, sia nell'ex capo della Bundesbank che si è dimesso e è stato sostituito, sia nei confronti di Jürgen Stark, che esprimeva nel board i tedeschi, e ha sostituito due banchieri centrali della propria nazionalità proprio perché sono e restano contrari a questa roba. Questo per quello che riguarda, diciamo, l'atteggiamento più da ragionamento nel medio termine di Mario Draghi. Adesso però veniamo anche al concreto, a quello che è successo oggi, al prestito effettuato. Io dico, insomma, se mi avessero detto un anno fa che la Banca Centrale Europea avrebbe prestato più di 300 miliardi alle banche così all'1% per 3 anni, avrei detto: ragazzi, cambiate mestiere. Invece il mestiere devo cambiarlo io. No, ma la verità è che la gravità della faccenda supera le nostre facoltà di immaginare. Allora, questa cosa, come spiegava bene prima Oscar Giannino, serve a dare fiato all'ossigeno alle banche. Le banche tra di loro non si prestano soldi, hanno un problema di incagli, speriamo che non siano sofferenze, ossia soldi prestati alle imprese più che ai privati, alle imprese, 100 miliardi la stima di Passera della settimana scorsa. Non stanno rientrando, non prestano più soldi e si finanziano con il tasso overnight, facendosi prestano i soldi di notte. Io l'ho chiamato più che overnight, overnightmare. E allora la Banca Centrale Europea cosa dice? Bene, invece che continuare con questo contagocce di liquidità, vi metto a disposizione più di 300 miliardi di euro. E voi li prendete a un costo bassissimo, l'1%, li potete tenere questi soldi per 3 anni. Immaginate se la vostra banca vi dicesse: guarda, puoi avere 50.000 euro, 100.000 euro a 3 anni all'1%. Però è qui, e questo, diciamo, ha rasserenato l'aria. Adesso arrivano, a mio avviso, i dubbi. Ci sono due possibilità, Oscar, per usare l'esempio di prima. Io questi soldi li prendo e me le reinvesto, ci speculo, e cioè, visto che le ho pagate l'1%, se io in questo momento come banca comprassi obbligazioni spagnole o italiane, bot, bonus, BTP, avrei un rendimento intorno al 5-5,5% netto, e quindi pago 1 e guadagno il 5 e faccio i soldi. Seconda possibilità, invece, uso questi soldi per tornare a aprire un po' i rubinetti verso le imprese e le famiglie. La prima possibilità ha anche un senso, perché la banca deve comunque guadagnare, ma diventa, a mio avviso, una bomba a orologeria, perché ti riempi di nuovo di bot, BTP, bonus. Se riparte un attacco speculativo, a questo punto non ti ferma e non ti salva più.

Io penso che sia giusta la posizione tedesca. Ricordiamo, nel 2001 la Germania stava molto peggio dell'Italia, produttività più bassa, spesa pubblica incontrollata più elevata, tasse più elevate. In 5 anni si sono messi in piedi sia sulla finanza pubblica che sulla competitività. Si può fare, ma loro hanno ragione da un altro punto di vista. Quando non si hanno i mercati dei beni e dei servizi unificati in una sola e condivisa area monetaria, quando ci sono squilibri di bilancio e pagamenti così forti, loro nell'ultimo trimestre è diventato l'attivo di bilancio di parte corrente più elevato al mondo, supera addirittura quello cinese negli ultimi mesi, con il 6% del PIL. E quando ci sono moltissimi altri paesi che invece hanno il segno meno per 2, 3, 4, 5 punti di PIL, l'unica maniera per continuare a stare con una moneta unica, visto che la politica vuole tenere separati i mercati a livello nazionale, è quello di ingranare una marcia di produttività non solo di rigore pubblico, in pochi mesi, con riforme spietatamente più forti di quelle rinviate per anni. O lo capiamo anche noi, oppure è inevitabile che una moneta comune non potrà reggere. Io rimango di questa idea, quindi io penso, per dirla, ho finito, quando stamattina su due giornali italiani, da una parte Chiamparino e dall'altra l'onorevole Boccia, cito appunto due esponenti del PD, dicono: ma la vogliamo piantare su questo articolo 18, un rimasuglio dell'ideologia del passato? Loro secondo me hanno capito che cosa bisogna fare. Tanti altri, da una parte e dall'altra, non faccio questione di schieramento politico, anche nel centrodestra un mucchio di gente ho visto che la pensa così, non hanno capito che altrimenti hanno ragione i tedeschi. Sì, sull'articolo 18 io sai come la penso, sono d'accordo, si deve flessibilizzare il mondo del lavoro in entrata e in uscita, obbligando anche gli imprenditori però a non fare le partite IVA ma a fare i contratti veri. Ho trovato solo intempestiva, cioè fuori tempo, in questo momento parlarne quando il paese deve ancora metabolizzare la riforma delle pensioni. Il tempo non c'è per metabolizzare, bisogna fare. La Fornero poteva anche aspettare. L'ha fatto apposta detto, però. Detto questo... Sì, batte il ferro finché è caldo, se non ora quando, visto che anche lei è una donna. Ma alla Germania riconosco che senza, diciamo, il pungolo tedesco, l'ascia tedesca, noi col cavolo che ci mettevamo a fare le riforme delle pensioni, la Lega nel governo Berlusconi non le avrebbe fatte. Così come io riconosco una cosa alla Germania, e questo è veramente la chiosa finale, tu riconosci una cosa però... No, ma antitedesca a me. Antitedesca, no, ma io sull'analisi, perché la crisi del 32 si è sbagliato il ciclo. Non so, avessimo salvato la Grecia ad aprile con 100 miliardi. Non c'è dubbio. Non stavamo in questo ritardo. Però avremmo ancora al governo chi diceva che noi non abbiamo nessun problema da sanare. Continuano a dirlo, malgrado abbiano perso il diritto a buon titolo per me di essere a Palazzo Chigi. E continuano a ridirlo. Questo voglio dire, ce la dice lunga. Anche sul beneficio totale, sul maleficio totale per gli europei, per i lavoratori e i risparmiatori, hai perfettamente ragione. Ma la politica è reduce da 10 anni di menzogne. E quindi l'unica maniera per farla capire, purtroppo, è che la paghiamo noi. Ma io spero che ce lo ricorderemo il giorno delle elezioni. Comunque la pensiate in ascolto. Allora, sì, Gianni Pinotto, Fred Astaire e Ginger Rogers. Non lo so, decidete voi, lo dico chi scrive al 349-238-6666. E Ginger Rogers la fai tu. su quello fatemi tacere, perché che l'ospite di solito... Anche questo, no, a parte gli scherzi, d'accordissimo, vedi che sui 100 miliardi che ci costava salvare la Grecia un anno fa non saremmo entrati in questo. Poi con il senno di poi si può anche dire: certo, non avremmo fatto la riforma delle pensioni, non avremmo messo mano ai costi della politica, ammesso che si è ottenuto qualcosa. Sono d'accordo, il ragionamento di Oscar Genino vale anche, lo dico non perché ce l'abbia con la Lega in questo periodo, lo sapete che qualche settimana che ne parliamo in questo programma, ma come si fa a dire non pagate l'IMU o l'ICI, e poi subito Zaia e anche Tosi hanno detto: beh, aspettate un attimo, nel momento in cui tu non hai proposto in 3 anni di governo una cosa alternativa, se non usciamo dall'euro, mettiamo i dazi alla Cina per sistemare le casse dello Stato, le pensioni no, l'ICI no, allora dimmi dove li troviamo questi soldi, andiamo a invadere la Svizzera, non lo so, dove poi troviamo però molti soldi degli elettori anche. No, intendiamoci, se per invadere la Svizzera in 24 ore dopo ci arrendiamo e diventiamo svizzeri, facciamolo subito. Vabbè, questa è la mia idea. Allora, grazie Oscar Giannino, grazie soprattutto a voi. Per aver tenuto in piedi anche il programma. Mi fa molto piacere vedere che comunque le posizioni possono essere diverse, ma l'analisi finale sulla drammaticità della situazione è assolutamente identica. Domani mattina, come sempre, lo ascoltate, non è che arrivo io domani mattina alle 9. Sarebbe un'idea, però, le irruzioni, i raid e ci rifaccio il favore, grazie a Oscar Giannino. Ciao, meteo, buon pubblicità, poi la borsa, Giacomo Vaciago e altri gestori di banche e private equity per rispondere alle vostre domande. 800 24 00 24. 17:47 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo questo siparietto, concedetecelo ogni tanto, è la seconda giornata e conclusiva della due giorni che Radio 24 dedica allo speciale crisi. Tutti i programmi e il palinsesto sono stati modificati, lo avete sentito. E allora, io, Oscar Giannino, lo dico a chi scrive, non ci vediamo, cioè ci vediamo privatamente, ma professionalmente mai, lui alle 9, io alle 17, una volta abbiamo fatto una piccola crasi, restiamo di, e così rispondo anche agli sms, di opinioni diverse sulla Germania, fermo restando che invece l'opinione è identica sulla drammaticità della crisi e sulla miglior figura che farebbe la classe politica, soprattutto chi ha appena finito di governare un mese fa, nel tacere. Scrivete che la Lega aveva proposto il federalismo fiscale, vero, verissimo, ma io ho chiesto qual è la proposta della Lega per uscire dal tema, diciamo, del attacco al debito sovrano, cioè spread a 480 che era arrivato a 570, borse a picco e rischio di tenuta sul nostro debito e sui nostri risparmi. Quella proposta di federalismo fiscale va benissimo, ma non c'entra nulla con il risanamento dei conti pubblici, visto che dice no alla riforma delle pensioni, dice no all'ICI. Vorrei sapere dagli esponenti leghisti che cosa si dovrebbe fare per ridurre il deficit, portarlo a zero e avere uno spread che torna ad essere accettabile e sostenibile per la nostra economia. A borsa. Allora, meno 1% Milano, meno 0,80 Parigi, meno 0,90 Francoforte, hanno ritracciato, quindi ridotto i cali, le borse nel finale, meno 0,60%. Insomma, dire che sia stato ben accolto il piano della Banca Centrale Europea, le richieste sono state di 489 miliardi, è dire troppo. L'accoglienza è stata quantomeno tiepida. Allora, come sempre con Radio Cuore sulle 24 ore, Livia Zancaner, buonasera Livia. Buonasera. Bilancio complessivo sulle borse. Sì, allora bisogna dire che oggi è stata una giornata estremamente volatile. Questa mattina i listini hanno beneficiato in prima battuta della mossa della Banca Centrale Europea, appunto, di finanziare a 3 anni gli istituti di credito europei. Poi invece le borse hanno girato in negativo. Secondo gli operatori, i mercati temono che le risorse, quindi la liquidità che è stata prestata alle banche, potrebbe non essere utilizzata per acquistare titoli di Stato dei paesi in difficoltà e quindi potrebbe non essere collocata sul mercato dei bond sovrani dei paesi dell'Eurozona. Quindi questo sostanzialmente è stato il fattore che ha penalizzato le borse, che alla fine hanno chiuso vicino ai minimi di seduta con Milano in calo dello 0,9%. Che era un po' quanto emergeva nella prima parte del programma con Oscar Giannino. Ancora, tra le banche si dice Unicredito è sotto aumento di capitale, farà il terzo e perde il 4,40. Intesa San Paolo si è mossa anche oggi in maniera diversa, più nel 16. Sì, allora, Intesa San Paolo ha guadagnato il 7,4% circa nelle ultime 3 sedute. Non ci sono novità, cioè non ci sono motivazioni che per questo movimento in controtendenza rispetto al comparto bancario, che ricordiamo che a Milano ha chiuso in netto calo. Fitch ha messo sotto osservazione i rating a lungo e breve termine di Intesa, vista la medesima decisione presa sull'Italia. Ricordiamo che all'asta BCE Intesa San Paolo ha partecipato per 12 miliardi, che è l'ammontare più elevato tra le banche italiane. Allora, mentre vedo che Ivano mi dice che con Giannino abbiamo fatto un siparietto che era meglio evitare, se mi spiega anche perché, capisco anch'io. Andiamo avanti sul mercato. Ghizzoni, tra l'altro, numero uno di Unicredito, ospite questa mattina proprio da Radio 24, ha chiarito anche un certo interesse per altri asset, cioè per possibili acquisizioni nel resto d'Europa. Il gruppo adesso, parte con l'aumento di capitale, diventerà una delle banche meglio capitalizzate in Europa, che vuol dire una delle banche più solide in Europa. Diventiamo una banca anche in grado di guardare ad asset interessanti in giro per l'Europa. Quindi è parte del libero mercato. Bisogna creare valore, bisogna fare crescere la banca, la redditività della banca, e sei protetto da questi potenziali assalti. Però l'importante è avere un gruppo solido ed asset, appunto, importanti di valore. Paesi come la Turchia, la Russia, la Polonia sono paesi che fanno gol a tutti, noi ce li abbiamo e li teniamo stretti. Così appunto Federico Ghizzoni, amministratore delegato del gruppo Unicredit. Ancora le altre banche, insomma, lo abbiamo chiarito. BPM però, noi ci siamo occupati di questa vicenda, l'abbiamo segnalata anche con la tua collega Flavia Carletti. Cioè la Banca Popolare di Milano ha venduto a molti risparmiatori, migliaia, un'obbligazione che in realtà non era un'obbligazione, era una convertibile in azioni, solo che la maggior parte di queste persone non l'hanno capito, il prospetto che noi abbiamo visto era veramente di difficile comprensione, e adesso si ritrovano con un'offerta che tutto quello che hanno messo di risparmi in questa obbligazione, che poi però era convertibile in azione, perdono il 90%, viene trasformata in azione BPM con un valore del 10% rispetto al totale. Ci sono novità da Federconsumatori su questo, Livia? Sì, infatti la notizia è che Federconsumatori ha dato mandato ai legali per avviare una class action, quindi un'azione collettiva contestando proprio il prestito convertendo emesso a fine 2009, quindi oggi il mercato ha valutato l'impatto di una possibile class action e il titolo ha perso oltre il 3%. Secondo gli operatori una eventuale class action potrebbe riportare la banca a effettuare nuovi accantonamenti e a rivedere i termini dello stesso convertendo, probabilmente con un ulteriore aumento delle azioni da emettere. Ricordiamo inoltre che vi è stata un'altra notizia, cioè il fatto che il Credit Suisse, per conto di un unico investitore, ha rastrellato oltre 59 milioni di diritti sul mercato legati all'aumento di capitale, che corrispondono, se esercitati, a una partecipazione dell'8%, quindi vi è anche un'ulteriore questione sul tavolo per la BPM. Sui titoli cito anche oltre a Prismian meno 4,61%, l'ex Pirelli Cavi, Unicredit meno 4,40%, Popolare Emilia Romagna meno 4,20%, Monte dei Paschi meno 3,90%, Ubibanca meno 3,5%, Popolare di Milano meno 3%. Però su Mediobanca, che perde il 2,90%, ci sono anche notizie di mercato. Sì, allora Mediobanca appunto ha chiuso in calo, alcuni operatori hanno rivisto al ribasso le stime per la banca per il 2012 e il 2013 per considerare le prospettive negative dell'economia italiana nel 2012, con un prodotto interno lordo previsto in contrazione dell'1,5% e anche per il difficile scenario finanziario di novembre e dicembre. Il titolo quindi ha risentito sia dell'andamento negativo del comparto bancario ma anche del taglio delle prospettive per i prossimi anni. Livia Zancanè resta con noi, magari ti faccio parlare anche con qualche ascoltatore di borsa, chiaramente, perché abbiamo anche i microfoni aperti oggi. 800 24 00 24, vorrei concludere con te l'approfondimento di borsa e poi passiamo alle vostre telefonate, ci sentiamo dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui prenderemo anche le telefonate. 800 24 00 24, domani il programma torna invece nella sua versione tradizionale. Vorrei però finire il commento sulla borsa con Livia Zancaner, e dicevamo, Livia, al di là della debolezza delle banche, delle incertezze e del fatto che su Mediobanca ci sia una revisione delle stime, altre notizie di mercato riguardano Enel, dove ha parlato l'amministratore delegato da un lato, ed Exor, ossia la controllante del gruppo Fiat, dall'altro, perché anche qui abbiamo notizie. Prego. Sì, allora Enel ha chiuso in negativo, mentre Enel Green Power però Enel Green Power positivo. Infatti allora il numero uno di Enel, Fulvio Conti, ha anticipato che l'azienda chiuderà il 2011 con un margine operativo lordo superiore ai target fissati, mentre gli altri obiettivi saranno comunque pienamente raggiunti. Conti ha sottolineato che i risultati derivano soprattutto dall'apporto positivo di Enel Green Power, che appunto ha guadagnato l'1,13% dai principali mercati che sono l'Est Europa e il Sud America. Conti ha inoltre ribadito di essere leader indiscusso nelle rinnovabili, quindi ribadendo l'importanza del loro business. Per quanto riguarda Exor, ricordiamo che a breve verrà finalizzata la cessione di Alpitour, dei fondi di private equity. Alpitour sarebbe valutata a 225 milioni di euro e gli operatori di mercato hanno valutato positivamente la cessione, che consentirà di quindi ridurre la posizione finanziaria netta, che è salita per effetto dell'aumento di capitale della Juventus, al quale Exor parteciperà per la quota di sua competenza e garantirà anche per la quota in mano agli azionisti libici, in quanto ricordiamo che la loro quota è ancora congelata. Ancora, titolo molto molto più sottile, piccolo, Banca Apulia, però qui c'è una notizia che riguarda un'offerta pubblica di acquisto, no? Sì, infatti Apulia ha guadagnato oltre il 33%. È il miglior titolo del mercato, più 33,17%. Sì, su Apulia c'è una notizia che è arrivata questa mattina, la notizia è che Banca Apulia ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sul 29,5% del capitale di Apulia non ancora detenuto, quindi le azioni si stanno allineando al valore dell'offerta e quindi hanno guadagnato in borsa. Secondo miglior titolo Juventus più 17,80, GDF Suez più 6,34, peggior titolo Media Contact meno 8,27 e Meridiana Fly meno 12%. Ci sono notizie su Meridiana? No, su Meridiana Fly non ci sono notizie, bisogna ricordare che qualche giorno fa è stato annunciato il raggruppamento delle azioni, ma per oggi non vi sono comunque notizie in merito. E male anche la Roma Calcio, meno 7,5%, Fondiaria meno 7,20%, De Longhi meno 6,20%. Grazie Livia Zancanelli, Radio Corriere sulle 24 ore, abbiamo risposto anche su Meridiana chi ce lo stava chiedendo. Allora 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms. Torniamo da dove eravamo partiti, ossia da questa operazione enorme, 490 miliardi di euro richiesti da 523 banche alla Banca Centrale Europea, a un tasso all'1% come garanzia, come collaterali si chiamano, quello che tu metti a garanzia, a qualunque cosa, titoli di Stato anche greci. Professor Giacomo Vaciago, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo anche le telefonate adesso e vorrei prendere alcune. Il tema resta quello della Banca Centrale Europea, dell'accoglienza molto fredda dei mercati, ma anche della manovra economica, se volete, quindi delle politiche del governo Monti. Giacomo Vaciago è economista, insegna alla Cattolica di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. Vorrei sentire Ambrogio da Milano, Giovanni da Roma, poi Maria Paola da Milano. Anzi, facciamo una cosa, ladies first, Maria Paola da Milano. Maria Paola, buonasera. Buonasera, io la dico grossa, perché ho fatto la situazione generale di una banca un po' di anni fa. Ecco, appena dopo lo scandalo delle banche americane, le nostre, io i grandi capi, come li chiami, quattro dell'Ave Maria, li mettevo in soggiorno obbligato e facevo entrare degli ispettori nelle nostre grandi banche, si ripuliva e saremmo stati veramente la Svizzera ma più intelligenti. Quando è che la piantiamo di difendere questa gente che ha ridotto queste banche così? Li difendiamo anche. No, chiarissima la sua obiezione, se posso allargare il suo intervento. L'obiezione è, vabbè, tutto quello che sta capitando sia in Gran Bretagna, dove il deficit viaggia al 9% ma il debito è vicino al 100%, che negli Stati Uniti e anche da noi, nasce da un eccesso di rischi che hanno preso le grandi banche e non solo, questa era la prima parte della crisi, in seguito anche da un eccesso di leggerezza nell'acquistare bond greci, bot italiani, bot spagnoli. E allora tutto questo lo facciamo per ripianare il sistema bancario, ma quando è che loro verranno riformati? Chiarissima domanda. Vorrei sentire anche appunto Ambrogio da Milano e Giovanni da Paola da Roma, scusatemi. Ambrogio? Pronto? Ambrogio, mi sente? Sì, sì. Senta, io invece vorrei parlare per quanto riguarda il discorso della flessibilità in uscita, in entrata e in uscita. Mi sembra che si riferiva comunque sempre alle aziende private. Io invece vorrei anche, che mi sembra che nessuno qui ne parli, nel settore pubblico, quando qualcuno farà qualcosa per dare una ristrutturata un po' come si deve al settore pubblico, perché secondo me bisogna avere il coraggio di farlo, perché in una fase storica che stiamo vivendo adesso, o lo facciamo adesso, una bella ristrutturazione, perché mi risulta che ci siano parecchie migliaia di persone che lavorano nel settore pubblico e non hanno il diritto di lavorare perché non fanno niente. Allora, sì, chiara anche questa domanda che si riallaccia poi alla manovra alla spagnola. Il nuovo premier spagnolo ha lanciato una manovra economica non di aumento delle tasse. Devo dire che lì già era intervenuto Zapatero negli anni scorsi, ma tutto di riduzione della spesa pubblica, blocco delle tredicesime, dei ponti, della mobilità e quant'altro. Giovanni da Roma. Buonasera, dottor Barisoni. Buonasera a lei. È un piacere sentirla, sto sempre alla radio ad ascoltarla. Volevo questo mi dispiace per lei, però. Ho detto già prima la signorina. Il 10% degli italiani che detengono la ricchezza, come dicono i giornali, e come lei chiedeva alla Lega, perché non fa lui qualche proposta? Io che non sono della Lega, che non sono un piccolo commerciante, perché non hanno fatto una patrimoniale? Passava all'1,050% di patrimoniale per chi detiene tutte queste ricchezze e avrebbero risolto i problemi. Poi si poteva parlare degli operai, si poteva parlare di questo, ma chiaro. Il buon esempio doveva partire da lì. Sì, la patrimoniale, come chiede da lei, che è un competente. Beh, insomma, competente non lo so. Diciamo che sicuramente, ne parlavamo anche ieri, un pezzo di patrimoniale c'è, l'ICI, l'IMU, è un pezzo di patrimoniale. Comunque, Giacomo Vacciago, le banche alla fine andiamo sempre a salvarle, e poi la flessibilità sul pubblico impiego e la patrimoniale. Ma cominciamo con le banche, e io non ce l'avrei solo con le banche italiane, quelle che hanno nominato, le tedesche, che la signora ha nominato, anche perché ha citato come modello la Svizzera, ma anche la Svizzera, ahimè, ha avuto problemi con le sue banche. Allora ricordiamo chiaramente che il sistema bancario da sempre gode di privilegi, perché senza di esso l'economia torna a quella della pietra, cioè ci facciamo il baratto. Io faccio lezione se gli studenti mi portano chi la frutta, chi il pane, chi la carne, e non è questo che vogliamo. Però è anche chiaro che la vigilanza deve essere molto più penetrante, e soprattutto non basta più la vigilanza nazionale. Abbiamo fatto l'economia globale, abbiamo almeno in Europa 17 paesi uniti dalla stessa moneta, ma la vigilanza si continua a farla mandando le guardie, in questo caso gli ispettori Banca Italia, solo negli sportelli italiani e così via. Questo modello si presta a abusi infiniti, perché è come se negli Stati Uniti non ci fosse ancora l'FBI, e basta che un ladro cambi stato, esatto, stato vicino, e nessuno più lo tocca. Sì, detto questo, professor Vacciago, d'accordissimo con lei, le banche sono una cosa troppo importante per essere lasciata in mano solo ai banchieri, però, perché... Ma l'abbiamo infatti la vigilanza, però purtroppo è indietro perché è ancora... Perché è nazionale, dopodiché sul tema più ampio della separazione, soprattutto nel mondo anglosassone, della banca d'affari, della banca che fa risparmio, gestisce risparmio, lì non ci siamo ancora, cioè si può continuare a fare raccolta sui risparmiatori privati, poi questi soldi con la mano sinistra li usi per fare leva, comprare CDS e quant'altro. Uno o fai investimenti a rischio o gestisci il risparmio. Vorrei però altre due risposte rapidamente, che abbiamo molti ascoltatori, anche sul pubblico impiego non toccato, da licenziare quelli che non lavorano, e la patrimoniale. Sul pubblico impiego il problema è di nuovo, come poi vedremo per la patrimoniale, un problema di rilevazione. Qualcuno è in grado di misurare il prodotto dei dipendenti pubblici? Io ho visto una novità in Italia a livello di imprese private. Siemens Italia da maggio 100 lavoratori suoi dipendenti li lascia lavorare da casa, perché tanto misura il prodotto ovunque essi lo facciano. Non devono più andare in ufficio. Noi purtroppo, il nostro precedente ministro del lavoro, della funzione pubblica, Brunetta, fece rientrare in ufficio gli assenteisti, ma questo è un modo drammaticamente sbagliato. Tu devi misurare il prodotto e pagarli in funzione di quello. Non basta un giorno, però non abbiamo ancora nemmeno incominciato. No, lì c'era il progetto di Brunetta, mi sembra che si sia un po' arenato. E la patrimoniale? Perché, insomma, sulla patrimoniale il problema è che al momento con lo Stato di catasto che abbiamo sarebbe di nuovo casuale, cioè la cosa che conta, gran parte della ricchezza è in immobili, l'80% della ricchezza italiana, salvo i pochi euro che ha il piccolissimo risparmiatore, ma la grande parte della ricchezza italiana è in immobili, e lo stato della valutazione di questi immobili è del tutto casuale. L'IMU o l'ICI rimessa anche sulla prima casa e la revisione del catasto e delle valutazioni di questi immobili è la vera sfida. Poi potremo fare patrimoniali, altrimenti tanto vale chiedere 1000 euro ai passanti. Sì, d'accordo, prima o poi però bisognerà farla, sono d'accordo con lei che senza una revisione catastale vai così a sparare nel mucchio. Immobili, ma anche alcuni beni di lusso, auto sopra una certa cilindrata e barche. Io lì, per esempio, una bella misura per smettere con questa cosa che uno le auto da 3.000 cc le intesta la società e quindi non sono sue. Insomma, mettiamo una legge per cui le società non possono avere un'auto sopra una certa cilindrata e basta, tanto non muore nessuno anche se giri con la macchina aziendale a 2.000 o 2.500 cc, però eviti di avere questa buffonata di chi dichiara 18.000 euro lordi e poi ha macchine. Ci sono 1 milione di automobili in Italia sopra i 2.500 cc di cilindrata. Traffico, le altre domande dopo, 349-238-6666, ma soprattutto 800-24-0024 per le telefonate. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per quest'ultima parte di Focus Economia, in cui continuiamo a prendere le vostre telefonate. Allora, Giuseppe dalla Spezia, Alberto da Cuneo e Alessio da Vicenza. Giuseppe, buonasera. Buonasera Barisoni. Sto notando da parecchi giorni che sono passati in seconda linea quelli che sono gli grossi sprechi nella pubblica amministrazione. Non se ne parla più. In primis la riforma del Parlamento, che si è ridotta alla riforma dei vitalizi, quando invece c'è da parlare giorno e notte della riduzione del numero dei parlamentari e la divisione dei compiti tra Senato e Camera. Non se ne parla più. Io 10 anni che non voto e non voterò mai più per 900 parlamentari. E non se ne parla nonostante ci sia una maggioranza straripante. Poi la riduzione o cancellazione del finanziamento ai partiti e ai finanziamenti diretti o indiretti alle confessioni religiose. Vanno eliminate, punto e basta. Ognuno si mantenga i suoi. Se ce la fa, bene, se non ce la fa, pippa. Come al Palio di Siena. Statuti speciali, stavo pensando. Chi non ha i conti a posto, le regioni che non hanno i conti a posto, vanno eliminate, va eliminata il regime di statuto speciale, assolutamente, sì. Perché ci sono squilibri pazzeschi. Parliamo poi della dirigenza, negli ultimi 10 anni la dirigenza pubblica si è centuplicata. No, ho capito, guardi, non posso, ho capito benissimo dove sono finiti i tagli. Sui tagli alla politica, guardi, abbiamo dato la notizia in apertura del programma, la nostra rubrica Ma cos'è questa crisi, che sostanzialmente la giunta del Senato ha dato via libera ai senatori che possono essere anche sindaci. C'era un'indicazione diversa dalla Corte Costituzionale e voglio dire, è come chiedere al tacchino di anticipare la festa del ringraziamento, no? Cioè, attenzione, non arrivano segnali importanti su questo, ma adesso faccio rispondere a Ciago a tutte e tre. Alberto da Cuneo, un po' più brevi se riuscite, prego. Buonasera ai suoi ospiti, brevissimamente. Un mese fa circa ho notato una notizia su un settimanale di economia tedesco, Handelsblatt, che parlava di un debito pubblico tedesco decisamente più ampio di quello dichiarato. Ora mi sembra talmente grande la cosa, perché se fosse vero probabilmente sarebbe la fine immediata dell'Europa e di tutti i bei progetti che stiamo portando avanti. Mi chiedevo se era possibile, appunto, due parole. Avere un aggiornamento su questo. Perfetto, grazie Alberto e buon Natale a tutti. Io non l'ho detto, ma buon Natale a tutti voi quando vi mettiamo in collegamento. Alessio da Vicenza, buonasera. Sì, salve, Fiorenzo da Vicenza. Scusi, hanno scritto Alessio, niente, mi dispiace. Non c'è problema. Una domanda veramente veloce sulla differenza attuale tra lo spread italiano e lo spread spagnolo. A parità di cambio di governo, a parità di manovre effettuate, siamo ancora abbastanza lontani, mi pare più di 100 punti base oggi. Sì. Come si spiega questa situazione? Perché non riusciamo a prendere questi spagnoli, dato che i fondamentali nostri sono certamente assolutamente migliori? Sono migliori. Cosa succede? Soprattutto fino a maggio noi eravamo stabilmente sotto la Spagna come livello di spread. Esatto. Allora, professor Bacciago, grazie anche a lei, buona tarda anche ad Alessio da Vicenza. Ah, scusami, Fiorenzo da Vicenza. Allora, professor Bacciago, taglia gli sprechi, la casta, ma non solo, la pubblica amministrazione, e la Germania sul debito e la Spagna sullo spread. Ma telegrafico, sui costi della politica l'intesa era, l'accordo era, non tanto una riduzione casuale, uniformare l'Italia alla miglior pratica europea. Questa è l'unica regola che dobbiamo sempre tenere ferma come bussola. Se in Europa chi fa meglio fa in questo modo, e ne ho esempi in tutti i campi, dagli acquedotti alle scuole, qual è la miglior pratica europea? Bene, noi dobbiamo emulare il meglio altrui. Questo è il nostro termometro. Andiamo a vedere dove il sistema politico, a parità di risultati e di efficienza, da i costi ottiene, è realizzato a costi minori, e quello è il benchmark per noi. Debito tedesco, anche loro hanno scoperto che cosa? Che una serie di voci di promesse di spesa, pensiamo a tutta una serie di legislazione che dà già diritti oggi ad avere corrispondente spesa, e dall'altra parte non c'è la corrispondente entrata, e quindi è, chiamiamolo così, debito sommerso. Attenzione, non ce l'ha solo la virtuosa Germania, ce l'ha probabilmente tutti i paesi del mondo, Italia certo, compresa. Se vuoi fare il raffinato e vai a vedere il costo atteso di una serie di provvedimenti che non hanno dall'altra parte un'entrata prevista, hai un debito sommerso anche in Italia. Basta pensare all'allungamento dei tempi di pagamento degli enti pubblici, di tutte le aziende pubbliche del paese, ed è debito sommerso. Certo. Verrà, i 60 miliardi che la pubblica amministrazione deve alle imprese italiane, il 70% è nella sanità. Quella roba lì va pagata prima o poi, e sarà debito sommerso. Spagna, Italia. La Spagna ha, non è vero che ha fondamentali peggiori dei nostri, perché se togliamo ciò che è strutturale, l'elevata disoccupazione e così via, la performance dell'ultimo Aznar e del primo Zapatero era stata migliore. La Spagna è peggiorata molto negli ultimi 3 o 4 anni, mentre all'opposto la Grecia andava malissimo da 20 anni, e abbiamo fatto un errore ad accettarla nella Unione Monetaria. La diagnosi sulla Grecia è il peggio. Lo spread ci sta. Emanuele da Udine, io ho 20 secondi scarsi. Buonasera Emanuele. Sì, buonasera. Mi faccia domanda come un telegrafo. Allora, volevo chiedere, o almeno capire, come mai la BCE presta i soldi alle banche, quindi vuol dire che le banche non ne hanno. Io quando vado in banca a chiedere un mutuo, la banca mi chiede il 90% o più della possibilità di pagarlo con mettendo ipoteche, firme di genitori, parenti, amici, altrimenti i soldi non me li dà. Vuole sapere perché lei non glieli danno? Perché lei non è una banca, non è una battuta questo, lo sa anche lei. E lo dico in maniera molto brutale perché siamo in conclusione, poi magari domani ci torniamo. Se lei fallisce o se lei non riesce a fare l'investimento, sostanzialmente nessuno se ne accorge. Se ne accorge lei, poi se ne accorge nel medio e lungo termine il paese, ma lì per lì non se ne accorge nessuno. Se fallisce una banca, ci sono decine di migliaia di risparmiatori che a quel punto vanno a gambe all'aria, e il sistema stesso, come insegna Lehman, non regge. Grazie anche a lei, grazie Emanuele da Udine, grazie a Giacomo Bacciago. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Il Natale si sente.